Si è spenta la luce dello sguardo poetico di Alessandro Broggi. Era nato nel 1973, questo poeta, co-direttore della testata web L'Ulisse. Oggi Le parole e le cose pubblica stralci del suo lavoro che si chiamava Sì, si chiama Sì, ed è un modo anche per conoscerlo adesso, è un modo per rendere omaggio a chi non c'è più. Leggendo le sue parole, lo possiamo fare perché nelle parole e le cose c'è questo testo e Italo Testa, che è qui, che saluto e che ringrazio, troverà le parole per raccontare la personalità e lo sguardo poetico a cui facevo riferimento di Alessandro Broggi. Italo Testa è un poeta saggista, vive a Milano, ha pubblicato tanto in poesia e anche lui è stato co-direttore della rivista L'Ulisse, come dicevo, ed insegna filosofia teoretica all'Università di Parma. Buonasera, Italo Testa. Buonasera, sì, non è facile ricordare oggi appunto Alessandro Broggi che è appena partito per la sua avventura ulteriore, ma Alessandro, come diceva lei, è stato un poeta, un intellettuale e anche un militante culturale, perché assieme appunto all'Ulisse è stato tra i fondatori di Gamma, un blog di scritture, è stato redattore di Nazione Indiana e si è concentrato poi ultimamente esclusivamente sulle sue scritture, sulle sue ricerche. E devo dire che per ricordarlo non si può non menzionare anche che Alessandro è stata una persona di squisita e sobria umanità, la bellezza delle persone buone, di cui parla Agnes Heller. Un'espressione che non può non venire in mente a pensare anche alla traccia, insomma, luminosa che ha lasciato nelle persone che l'hanno incontrato, non solo per l'affabilità e la gentilezza, ma anche per quel rigore che sia come persona che come autore, che credo lo abbia connotato nelle scelte esistenziali e poetiche che ha perseguito con tranquilla ostinazione e convinzione, ma insieme calma e con radicalità. Credo che questo rigore e radicalità siano nell'approccio alla sua poesia, ne abbiano connotato, ne connotino il profilo, in un'indagine che è stata sulle forme, sulle procedure della scrittura, sul rioso e il montaggio di frammenti testuali e che hanno portato nella prima fase della sua opera, soprattutto quella che confluisce poi in Avventure Minime, un libro del 2014, ad una forma di scrittura concettuale e procedurale che si focalizzava sulla critica del linguaggio come ideologia, nel suo uso mediatico, pervasivo, contemporaneo. Però con questa sua radicalità non si è fermato a questo, ma ha praticato questa critica in forma talmente, diciamo, estrema e radicale da portarla oltre la sua stessa ideologia e portarne in luce quello che chiamerei l'aspetto affermativo, la traccia energetica. È come se Alessandro, non so, mi veniva da pensare oggi, avesse attraversato una frontiera per via immanente, soprattutto in questi due ultimi lavori importanti di questo decennio, sono usciti Noi del 2021 e Sì, uscito nel 2024, entrambi per l'edizione TIC. È come se fosse passato dalla critica alla ricostruzione del linguaggio come esperienza possibile, anche affermazione della vita. E come direi, se si volesse un po' riassumere l'idea che si è incamminato verso qualcosa, io penso di nuovo, che molti hanno percepito così, non solo dal punto di vista tematico, con una dimensione così ecologica, immersiva, ma anche esperienziale dei suoi ultimi lavori, ma anche nella concezione stessa del senso della scrittura, no? Riletta secondo un'idea molto inclusiva che va al di là degli steccati, un'idea, potrei dire, condivisa e affermativa di arte poetica che attraversa trasversalmente un po' le frontiere della poesia contemporanea e che credo sia ripresa in modo molto icastico dal titolo proprio di questi suoi due ultimi libri, Noi e Sì. Quest'ultimo, magari vi leggerei un breve Sì, brano da grazie. questo libro, Grazie. Sì. in piena coscienza, nei limiti dell'immaginazione, senza supplenze e senza cautele, su due piedi, con larghezza di pazienza, abitando i margini dei mari e sciogliendoti nei punti di appoggio, con piccoli orizzonti o immensi orizzonti o niente orizzonti del tutto, dove inizia il bosco, sotto la vampa solare, nel vano della finestra più lontana o esattamente qui davanti, con un'impressione di vuote vastità negli occhi, in attesa che intervenga qualcosa di aneddotico e familiare o di essere comunque sottoposto a impercettibili riposizionamenti, in un tempo, in un luogo qualsiasi dell'universo, sulla Terra, qui. Ora, nel torpore di mezzogiorno senza prevenzioni, nella contingenza dei significati, con una gioia evidente, ti avvicini come fossero pozzi profondi, dove presumi di vedere attraverso l'ombra e la luce delle finestre ci sono specchi. Non c'è realtà al di là delle tue definizioni. Ogni cosa del mondo fisico è uno specchio e devi sorridere per primo perché l'immagine sorrida di conseguenza. Ora sei fuori. Grazie, la voce che ascoltate è quella di Italo Testa, che ha letto la traccia energetica, visto che lei questo così la definiva, di Alessandro Broggi dal suo sì. Questa traccia energetica è davvero una grande recensione, non solo per un poeta ma per un essere umano, poter lasciare questa traccia energetica a proposito di queste definizioni che cercava Italo Testa per definire il lavoro di Broggi, anche, e l'ha usata spesso, la parola radicale, anche declinata in radicalità. E la parola radicale è una parola che ama lei in un testo di Interlinea di tempo fa, autorizzare la speranza, giustizia poetica e futuro radicale, teorizza anche questa e ne parla di questa parola. Qual era la verità poetica di Alessandro Broggi? Credo che questa verità sia da scoprire, cioè una verità a venire, quella della sua scrittura, che effettivamente è una poesia che ci parla del nuovo, di qualcosa, soprattutto nelle sue ultime incidenze, di qualcosa verso cui ci stiamo incamminando. Noi, questo libro, che è il penultimo, il terz'ultimo, perché da ultimo è uscito anche un testo che si chiama Idillio per Arcipelago Edizioni, in questo Noi era molto presente questa figura dell'attraversamento di un paesaggio da parte di un insieme di personaggi che erano costruiti dal paesaggio stesso e che si incamminavano verso un'esperienza il cui senso in qualche modo non era dato, ma si dava nel procedimento stesso della scrittura. Io credo che forse, non so se è la verità, ma questo suo rileggere la procedura, la tecnica, la forma stessa come forma di, come modalità di attraversamento del mondo sia uno dei, dire, delle tracce che ha lasciato, credo, a molti, a tanti che guardano alla sua opera e alla sua figura. Grazie Italo Testa, che ha ricordato con affetto ma anche con gratitudine, aggiungerei, e con grande rigore il profilo di Alessandro Broggi, l'ha ricordato per noi. Magari ha dato anche lo spunto a chiunque sia qui in ascolto interessato di poesia a cercare questo poeta che si è spento adesso, ieri. Alessandro Broggi era del 1973, codirigeva l'Ulisse con Italo Testa, redattore di Nazione Indiana, era molto attivo ovviamente su blog, su anche online. Le sue cose sono uscite per Inezie nel 2002, Lieto Colle, in Poesia Contemporanea Marcos y Marcos, Total Living, edito per la Camera Verde, e anche un Nuovo Paesaggio Italiano, Arcipelago 2009, ha le sue poesie, poi in antologia, Coffee Table Book per Transeuropa 2011. Insomma, le avventure minime di Transeuropa, sempre, a cui faceva riferimento Italo Testa, che ringrazio e che saluto,